so immaginare, mi porto allo stremo per farmi strappare i gesti e le facce che stanno a guardare, mi metto a amar.